perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Allora Mauro, volevo iniziare questa trasmissione dandoti subito conto del fatto che diminuiscono le rapine in banca, perché poco fa l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, ha fatto sapere che nei primi 9 mesi di quest'anno sono stati 188 i colpi compiuti allo sportello, cioè un calo del ben 37% rispetto ai 298 colpi messi a segno nello stesso periodo dell'anno scorso. Ma scusa Deborah, dimmi. Buongiorno. Buongiorno intanto. Buongiorno, benvenuta. Sì. Benvenuta a Due di Denari, Deborah. Sì. Forse non è storiacce di Raffaella Calandra, ma è il nostro programma dedicato ai soldi. Forse è più conveniente adesso come adesso rubare dei bitcoin, perché rapinare questo disturbo, il passamontagna, anche eccetera, i rapinatori eccetera. Si evolvono, esatto, craccano qualche piattaforma di bitcoin e chi investe in queste novità tecnologiche magari ha delle brutte sorprese. Però vabbè, noi ovviamente non lo auguriamo a nessuno. Invece è una buona notizia il fatto che diminuiscano le rapine in banca. Quell'addizione, esatto, stamattina non è proprio di quelle ottimali. Hai cantato troppo ieri sera. E avevamo delle prove con il gruppo dei Chapter 11, come sai. Sì. Ma oggi dobbiamo parlare, ovviamente, essendo giovedì, di investimenti, di investire informati. Allora, io sono venuto come sempre col blocco degli appunti, estraggo la penna. Bravo. E sono qui per imparare. Però già ieri abbiamo dato delle belle lezioni ai nostri ascoltatori, è stata sì, una trasmissione che ci è sembrata particolarmente apprezzata e questo ci fa piacere. E infatti oggi con il Sole 24 Ore trovate in edicola quel che vi raccontavamo ieri in anteprima mondiale, globale, universale. Esatto. Cioè questo volumetto, La scelta del consulente, che mostro ai nostri amici che ci seguono via Facebook, il social network più diffuso. Oggi con il Sole. È in edicola oggi con il Sole 24 Ore. Come dicevamo ieri, è una cosa molto molto semplice, qui non c'è da imparare la finanza, anzi c'è proprio da farsi un ABC per trattare al meglio con chi ci deve consigliare, ci deve aiutare nel gestire i nostri risparmi, che tanta fatica facciamo ad accumulare. Temi sui quali torneremo anche oggi, anche se oggi il nostro focus sarà sui mercati finanziari. Sono giornate molto interessanti. Intanto ieri abbiamo avuto l'attesissima riunione della Banca Centrale Americana, che ha messo a segno questo terzo rialzo dei tassi di interesse che era previsto per quest'anno. È stata l'ultima riunione della signora Yellen, gestita, coordinata da Janet Yellen, che saluta la Federal Reserve, la Banca Centrale Americana. Dal 3 febbraio arriva Jerome Powell. Oggi però è un'altra giornata. Ma quanto calda. Sono ora i tassi, quindi ricordiamolo? Tra l'1,25 e l'1,50%, lo chiamano questo corridoio. E quindi questa forchetta, questo range, insomma. Esatto. Ah, range. Oggi è un'altra giornata importante. Pensa che stamattina anche la Cina ha alzato il costo del denaro, mentre a breve, tra qualche ora, aspettiamo le decisioni di Bank of England e Banca Centrale Europea nel pomeriggio, a partire dalle 14, come sempre c'è l'attesa conferenza stampa di Mario Draghi, numero uno della Banca Centrale Europea. Quindi insomma anche oggi una giornata ricca di cose da raccontare. 800 24 00 24, il numero verde se volete intervenire, venire in diretta per chiederci qualche così delucidazione su questi scenari finanziari che sembrano anche piuttosto interessanti, perché le borse continuano ad andare molto bene. Ieri sera per Wall Street nuovi record, caro Mauro. Non mi investire adesso sul mercato americano perché rischi di farti male, io continuo a dirlo. Sul mercato americano, Deborah, tu continui a raccomandare prudenza, perché esatto, sarò considerata la Cassandra, esatto, un po' come Nuriel Rubini qualche anno fa. Speriamo. Però c'è anche il numero per gli SMS e il WhatsApp, non vorrei trascurarlo perché è un numero importante, ci scrivete sempre moltissimo e vi ringraziamo di questo. Il numero è 349-238-6666. Se preferite l'email, potete, Due di Denari è scritto in lettere, due di Denari, chiocciola radio 2424, ecco, questa volta, punto it. No, lo metto così per mettermi in difficoltà. Per fartelo spiegare tutti i giorni. Ah. Vorrei dirti che intanto 4 WhatsApp sono arrivati a commento della storia delle rapine in banca. Ecco, te lo puoi immaginare il tenore dei commenti degli ascoltatori. Ho capito, sono magari un po' sarcastici, esatto, e critici su chi nei confronti rapina chi, esatto, degli istituti di credito. E qui stenderei subito il velo pietoso per andare invece ad iniziare la nostra rubrica del giovedì. Investire informati. Today the Federal Open Market Committee decided to raise the target range for the federal funds rate by 1/4 percentage point, bringing it to 1.25 to 1.5%. Ma oggi non dovevamo fare economia, perché non era lezione di inglese oggi, non ho portato il libro. Si capisce anche per due caproni come noi in inglese, come me in particolar modo, in realtà si capisce molto bene quello che ha detto ieri sera la signora Janet Yellen, annunciando che il Federal Open Market Committee, che è il braccio operativo della Banca Centrale Americana, il braccio di politica monetaria, ha annunciato appunto questo aumento dei tassi di interesse. Da qui partiamo per la nostra chiacchierata di oggi con Marco Parini, direttore investimenti di Che Banca, che torna a trovarci. Benvenuto, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Allora, temi interessanti assolutamente, perché lo scenario di aumento dei tassi di interesse da qualche parte preoccupa, da qualche parte invece viene visto come un segnale positivo, perché è la conferma della normalizzazione della politica monetaria, quindi di una condizione anche di serenità maggiore per l'economia in senso generale. Questo è il tema da cui partiamo, però è anche una stagione molto interessante, perché è cominciata, dottor Parini, la diffusione dei report e delle previsioni per il 2018, no? Anche se molte non ci credono più, perché in tanti, dopo le previsioni rilasciate negli ultimi anni, che non sempre sono state azzeccate da economisti, analisti, e ci metterei anche i giornalisti, dicono sì. Ma insomma, cosa l'ho fatta fare questo esercizio? Tanto mi sembra che inutile. Già avessimo citato una volta la battuta che dice: le previsioni in economia si fanno per dare più lustro all'astrologia, ecco. Per dare anche più credibilità all'astrologia. E però insomma, nell'esercizio della scrittura dei cosiddetti outlook sul prossimo anno continuano a cimentarsi molte società. Pare che ci sia una visione abbastanza allineata su un punto: il 2018 potrebbe essere un anno di rottura rispetto a quello precedente, a questo che stiamo lasciando, e molti si aspettano, per quello che riguarda il mercato, la borsa, le società, utili più contenuti e una maggiore volatilità. Diamo subito un flash rispetto a questo. Voi siete allineati a previsioni come questa, dottor Parini, oppure la vedete diversamente? Sulla possibilità di una volatilità più alta sui mercati, sì. Assolutamente, e questo è anche dovuto al fatto che il tenore della congiuntura, che è positiva ed è superiore alle attese, sta perdurando, e sta perdurando su un periodo di tempo straordinariamente lungo, in particolare per il ciclo economico americano, per cui una fase di espansione così lunga non si era mai vista. Questo stimola comunque anche negli investitori il tema dell'esponenziale inversa, per cui più tempo passa mentre attendi il tram, più probabilità c'è che arrivi da un momento all'altro. Questo è riferito a un eventuale drawdown del mercato. Se però non facciamo previsioni, ma ci limitiamo a commentare... Il drawdown è una caduta violenta, una po' caduta vistosa. Violenta del mercato, un ribasso del mercato. Se è quello che teme sempre Deborah nel mercato americano sostanzialmente. Se però andiamo non a fare previsioni, ma a cercare di analizzare razionalmente quelli che sono i numeri, i contesti, il contesto macro, il contesto micro, per cui sia gli utili sia il contesto invece dei dati macroeconomici, diciamo che al momento non ci sono dei segnali di preoccupazione. È chiaro che nelle fasi di perdurata crescita i momenti distonici possono andare a creare dei momenti di volatilità, ma in questo caso tendenzialmente nel prossimo anno, se ci saranno, le vedo più come delle buying opportunity che come dei segnali di inversione. Quindi dei momenti in cui si creeranno delle occasioni di acquisto e di investimento. Assolutamente, perché se andiamo a vedere, certo, i dati macro sono come dovrebbe positivi. Essere sempre, peraltro. Sì, quasi sempre, nel senso che se comunque il ribasso del mercato è l'inizio di un trend negativo, andare a comprare all'inizio di un trend negativo non è proprio il tema massimo. È saperlo. Allora, anche se il mercato dovesse subire un rallentamento, ad esempio questo famoso mercato americano statunitense di cui sempre Deborah è un po' preoccupata, in apprensione diciamo, non preoccupata, però attenzione, potrebbe darsi che andiamo a una maggiore volatilità, quindi non reagiamo d'impulso. Questo potrebbe essere una prima indicazione. Questo è assolutamente il segnale nel 2018. Cioè, ogni qualvolta c'è un ribasso dei mercati o una situazione di maggiore volatilità, bisogna sempre chiedersi se è un momento dovuto a condizioni fisiologiche o se è semplicemente... O se invece è un'inversione di rotta. Se è un'inversione di rotta, un'inversione del trend, l'inizio di un trend recessivo, allora in quel caso lì bisogna stare molto attenti. Allora, ma non vediamo in questo momento grossi problemi che ci possano, o rischi che possano innescare un trend di inversione in questo momento brutale, brusco. Rimangono i temi soliti, che sono quelli della crescita della Cina o di una crescita forte dell'inflazione che possa portare ad una stretta dell'accesso creditizio. Mm-hmm. Due possibili incognite, appunto, delle quali però dovremmo avere considerazione. Intanto le leggo, Parini, qualche messaggio che arriva da qualche ascoltatore, qualche domanda su WhatsApp, domande che si riferiscono alla scelta fatta ieri dalla Federal Reserve di aumentare i tassi di interesse, che era già stata ampiamente preannunciata dal mercato, direi anche digerita. In realtà qualche ascoltatore osserva il movimento curioso che c'è stato nel rapporto euro-dollaro, perché si è rafforzato l'euro ieri sera, superando di nuovo 1,18 rispetto al biglietto verde. Un ascoltatore dice: ma non dovrebbe essere il contrario quando una banca centrale aumenta i tassi di interesse della propria economia? È corretto, dovrebbe essere il contrario, però nel momento stesso in cui questa decisione è ampiamente scontata dal mercato e ampiamente anticipata dalla stessa Fed, i corsi valutari avevano già incorporato le attese, per cui il mercato si muove non sulle notizie, ma sulle attese. Come e poi diceva anche ieri sulle Everardo notizie. Dalla Noce, ti ricordi? Sì, abbiamo ricordato ieri proprio Everardo Dalla Noce, che spiegava in una breve clip che abbiamo mandato in onda. Il mercato reagisce in qualche modo prima, cioè gioca sempre in anticipo e quindi, giocando in anticipo, ha già scontato, ha già messo da parte. Però io voglio introdurre un tema che, mi perdonerà Deborah, è forse economico che finanziario. Proprio oggi sul Sole 24 Ore ragioniamo su questo. C'è una ripresa diffusa in Europa, negli Stati Uniti, non è universalmente diffusa, cioè non coinvolge tutti gli strati della popolazione. Questo accade in Italia, accade anche in altri paesi europei, però l'inflazione rimane freddina, cioè si riscalda poco. Oggi proviamo a metterlo in relazione, ad esempio, con la diffusione dell'e-commerce. Uh-huh. L'Amazonite, com'è che l'ha chiamata questa nuova malattia che colpisce la economia? C'è una sorta di effetto Amazon, cioè il fatto che sia diffuso l'e-commerce e quindi la disponibilità di prezzi più bassi, di comparazioni e così via, in qualche modo raffredda l'inflazione. E questa non è, in un certo senso, un'ottima notizia, perché saremmo abituati a pensare che se l'economia va bene, poi l'inflazione sale entro certi moderati limiti, perché questo significa anche una maggiore disponibilità di reddito, di investimento e di acquisti. Non so se è chiaro che è difficile trovare poi un legame con l'ambiente finanziario, come ci dovremmo comportare nell'investire i nostri risparmi, ma l'impressione è che ci troviamo di fronte a un quadro abbastanza inedito. Cose che rende forse più difficile le vostre previsioni, no, dottor Parini? Sì, da un certo lato sì. Relativamente al tema dell'inflazione, siamo in un contesto in cui l'inflazione è bassa e sotto quelli che sono i livelli target o i livelli attesi nelle principali economie in Europa, in Giappone e negli Stati Uniti. Quello che ha detto, ovviamente, sul tema dei prezzi al consumo, per cui una maggior concorrenza che può in un qualche modo andare a calmierare i prezzi e quindi a rallentare la crescita dell'inflazione, può essere sicuramente un tema. A nostro avviso il tema fondamentale è che, soprattutto questo negli Stati Uniti, le ottime condizioni del mercato del lavoro, per cui una occupazione in un'economia in pieno impiego, non si sono ancora tradotte tanto in un aumento dei salari e quindi del reddito spendibile. Ce lo attendiamo per il 2018, per cui le attese che abbiamo sono quelle di una... La razionale aspettativa che si può avere è quella che i buoni risultati del mercato del lavoro si tramutino in un miglioramento del reddito spendibile dei consumatori e quindi diano un contributo positivo alla crescita dei consumi e quindi dell'inflazione. Diciamo che quello forse è il primo anello della catena inflazionistica, che in questo momento sta lavorando un po' lentamente e che dovrebbe forse lavorare di più. Ci attendiamo, tra l'altro, anche in America, che gli effetti della riforma tributaria che è stata approvata porteranno sicuramente e maggiormente un incremento della parte di spese per investimento da parte delle imprese, e queste potrebbero anche tradursi comunque anche in salari più alti e quindi anche in maggiori spese. Ma secondo lei l'aumento dei tassi di interesse andrà a neutralizzare la riduzione delle aliquote fiscali per le imprese e le famiglie? Perché c'è questa... Sì. curiosa situazione adesso negli Stati Uniti, no? Quale potrebbe sarà sicuramente andare in parte ad offsettarlo. Offsettarlo ci è piaciuto, lei lo sa che deve tradurre contestualmente per i nostri ascoltatori a calmierarlo, ecco, bravo, chiedo venia, a calmierarlo. Per noi è tutta assolutamente assolutamente credo che comunque la riforma tributaria possa comunque avere un apporto positivo sulla parte dell'economia americana, che ci attendiamo a essere più forte nel secondo trimestre del 2018 piuttosto che nel primo trimestre. E se volessimo fare poi una fantascienza delle politiche regolatorie, bisognerà anche vedere come andrà a finire questa complicata vicenda, questo complicato braccio di ferro tra le legislazioni nazionali e le iniziative sovranazionali giganti del web, tanto per dire una cosa molto popolare in questi giorni. Se Facebook, come ha annunciato, passa a una contabilità paese per paese, e quindi allora diventa più facile la tassazione di Facebook nei singoli paesi europei, allora lì c'è un aumento di gettito, eccetera, certo, eccetera, eccetera. Però tutto questo lo vedremo, lo scopriremo solo vivendo, per usare le parole del poeta. Le canzoni che tanto ti piacciono. Parini, la volatilità che ha pronosticato per l'anno prossimo, che sia più o meno accentuata, che ci preoccupi più o meno, come ci dobbiamo proteggere, come ci dobbiamo attrezzare per affrontare uno scenario di questo tipo? Naturalmente lei si deve mettere sempre la casacca del piccolo risparmiatore, no? Sì, assolutamente. Una delle cose positive di questo 2017 è che è aumentata, o meglio, è diminuita la correlazione tra le diverse asset class, per cui tra le diverse aree di investimento o tipologie di investimento. E questo va a tutto vantaggio della riduzione del rischio se si è diversificati. Pertanto la prima norma per andare a proteggersi in casi di volatilità è quello di andare a diversificare. Diversificare anche qua in maniera oculata, per cui non essere troppo esposti all'azionario italiano o all'azionario europeo, ma avere anche un po' di azionario America, un po' di azionario emergenti. Non essere iper esposti, e questo è tipico forse del risparmiatore italiano, ai mercati obbligazionari in genere, perché considerati più sicuri. E poi l'altro tema è quello che stiamo vedendo, che anche sulle materie prime la decorrelazione con in particolare i mercati azionari è aumentata leggermente, per cui uno degli elementi di protezione che possiamo inserire all'interno del nostro patrimonio, del nostro portafoglio, è un piccolo investimento in materie prime come possono essere l'oro o il petrolio, non a scopo speculativo ma semplicemente a scopo di protezione. Starei attenta al gas in questi giorni, perché ha dato qualche segnale un po' sinistro proprio oggi scriviamo di sospetti di manipolazione sul mercato italiano del gas, ecco, quindi sì, ci mancava pure questo. Sì, dopo la questione dell'incendio in Austria, dell'approvvigionamento, appunto, che è mancato per... No, tu sappi che dovremmo fare delle puntate sulle bollette, perché qualche effetto ce lo avremo, è da gennaio, lo hanno già annunciato in molti. Il ministro Calenda ha voluto un po' stemperare i toni di tutto ciò, dice non è che per una emergenza di un giorno avremo delle bollette sovraccariche a gennaio. Tu vuoi vedere che invece ti toccherà anche parlare di questo il prossimo mese? Vedrai che affronteremo prima o poi anche la questione degli oneri di sistema sulle bollette, che sono sempre una voce... Ti chiedo di fare come Parini, traduci in italiano corrente, guarda, per cortesia, questi, diciamo, questi concetti. Che molti pensano che siano delle tasse, delle imposte che gravano, in realtà sono degli oneri che vengono messi per a favore di incentivi alle rinnovabili e alle energie rinnovabili. Però ad esempio sulle seconde case c'è stata una modifica normativa che è partita dal 2017 e che si è tradotta in rincari molto elevati. Ne abbiamo già parlato qualche volta qui a Due di Denari, sì, e ne parleremo diffusamente presto. Infatti adesso non chiediamo naturalmente commenti a Parini sul questo argomento, ma rimaniamo bollette, invece sui temi che più ci sono cari: l'andamento dei mercati finanziari, tutti quei fattori che potrebbero anche rappresentare un po' delle tematiche di disturbo l'anno prossimo, magari in certi momenti. In questi giorni è riesplosa la questione anche di Gerusalemme, ogni tanto le sortite di Trump, no, preoccupano un po' sicuramente lo scenario geopolitico internazionale. Sui mercati finanziari però le sue sortite di quel tipo là non hanno effetti, Parini? Non li abbiamo ancora visti, secondo lei, o se lui dovesse esagerare ancora con le sue uscite, dovremmo preoccuparci anche da questo punto di vista? La Corea del Nord non è che si sia completamente abbassata la serranda anche su quel versante? Diciamo che le mosse più o meno poco ortodosse in un qualche modo possono sicuramente andare a movimentare quelli che sono le discussioni sui temi geopolitici. Va detto che in questo momento però il mercato non sta apprezzando in nessun modo diciamo un'elevata probabilità di rischi geopolitici, anzi forse sono anche, infatti anche sulla Corea del Nord che citava Deborah non c'è una non sembra esserci sui mercati una particolare apprensione. No, in questo momento quello che stiamo vedendo sui mercati è che non ci sia una particolare preoccupazione sugli aspetti geopolitici legati alla Corea del Nord, al Medio Oriente in particolare. Il mercato si concentra sui fondamentali, direi. Anch'io mi concentrerei adesso sul concentrarti sui fondamentali. Fondamentalmente, Deborah, mi concentrerei su quello che devo fare a quest'ora, generalmente allora, come faccio tutti i giorni. Ma allora guarda, fondamentalmente, cara Deborah, dovresti aggiornarci sui fondamentali dei mercati finanziari. Vado. E quindi, come sempre, alle 11.30 è il tuo momento e perciò, Deborah, le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di Denari. Visto che molte persone vorrebbero perdere tanti chili per ovvie ragioni, perché vogliono andare al mare subito, perché vogliono sposarsi, però adesso sono dei bidoni. Studi recenti sulla perdita di peso mostrano che il 95% delle persone che sono a dieta falliscono perché le diete sono troppo complicate. Dateci una settimana, vi toglieremo il peso. Finalmente potrete mettere tutti i costumi che volete. Allora, no, non siamo ritornate a Cuore e Denari. No, non arriva la Nicoletta periodo... Carbone che ci dà suggerimenti. Ma poi, scusa, Deborah, non è neanche periodo di prova costume che mandi tutte queste cose guarda, sulle diete. Dopo Natale tu falla la prova costume, vedremo cosa tutti i rotolini che escono. Io vorrei farla scritta, la prova costume, se è allora, possibile. No, speriamo ai nostri ascoltatori il motivo per cui abbiamo utilizzato disseminati sul web questi spottini legati a questi programmi di dimagrimento veloce. Perché l'abbiamo fatto? Perché dobbiamo introdurre il tema ETF verso fondi di investimento. Ah, e quindi allora parliamo dei fondi ETF perché con me le cose devi spiegarle passo. In una delle ultime puntate in cui avevamo ospitato Marco Parini, proprio verso il finale della trasmissione, e Parini era stato molto frustrato di questo, erano uscite delle considerazioni con alcuni ascoltatori che richiedevano ancora una volta di spiegare la differenza fra il fondo comune di investimento e l'ETF, la cui differenza fondamentale è che il fondo di investimento è gestito da un gestore, l'ETF invece va al traino del mercato a una gestione passiva, ma ce ne sono tante altre differenze, costi, eccetera. Allora, andando un po' a caccia su web di notizie sulle ultime novità sugli ETF, abbiamo scoperto che replicano l'universo mondo, hanno come sottostante tutti i settori su cui è possibile investire, le valute, le azioni, le obbligazioni, ma anche programmi di dimagrimento. E addirittura mi hai parlato di un ETF che replica l'andamento della marijuana. Esattamente, adesso poi ve le raccontiamo naturalmente questa verità. Parliamo per uso medico, naturalmente. Aziende che operano nel settore della marijuana, che è legalizzata in molti stati, fra cui anche negli Stati Uniti, per cui è tutto legale, tutto regolare, ma ci sono anche quelli che replicano ovviamente un po' il mondo dei bitcoin, e non so come abbiano fatto, visto che il bitcoin sta esplodendo adesso, ma in realtà ci sono già da mesi quelli che replicano i peer, non sono neanche partiti in Italia che già erano pronti tutti gli ETF. Per cui di curiosità da raccontare agli ascoltatori ce ne sono, ma molti chiedono ancora invece di avere le regole fondamentali di funzionamento dell'ETF rispetto al fondo. Per cui, Parini, perché è importante spiegarlo bene ai nostri ascoltatori? Perché molti pensano ancora che ci sia una sostanziale alternatività e perfetta alternatività tra i due strumenti, mentre i due strumenti sono complementari. Sono sostanzialmente due cose diverse che possono andare bene o andare male, ottimizzare o meno le scelte di investimento a seconda dei momenti. Quindi l'importante è sapere bene in che cosa si sta investendo. Se io compro un ETF vado sostanzialmente a comprarmi un indice di mercato. Se il mercato sale il mio ETF sale, se il mercato scende il mio ETF scende. se sale del 5 il mio ETF sale del 5, se scende del 5 il mio ETF scende del 5. I fondi invece hanno una gestione attiva. Hanno una gestione attiva nel senso che c'è un gestore che seleziona, che fa delle scelte, che cerca di ottimizzare attraverso le scelte di gestione l'andamento dei mercati. E non è che sempre faccia meglio del mercato, questo va detto, che qualche volta qualche gestore viene anche un po' accusato di non battere i cosiddetti benchmark. È verissimo, ecco. ed è vero in particolar modo in contesti come questi, cioè in contesti dove c'è una crescita dei mercati e una bassissima volatilità, è difficilissimo per un gestore attivo, soprattutto sugli azionari, certo, andare a battere il mercato. E quindi in questo caso magari andare a pagare delle commissioni di gestione, per cui un gestore e un servizio di gestione, per ottenere dei risultati che sono pari o magari inferiori al netto delle commissioni rispetto a quello di un ETF, è un ragionamento che ci sta e ci può stare. Va detto anche che tuttavia se c'è il dubbio e non tutti i gestori attivi riescono a battere in fasi di mercati crescenti gli ETF, è vero anche che in fasi di mercato calanti, per cui in fasi di elevata volatilità, chi ha un ETF prende pari pari quello che fa il mercato. La gestione attiva è molto più ottimizzante nell'andare a ridurre il ribasso sul fondo, per cui se ci aspettiamo maggiore volatilità è chiaro che il concetto del fondo comune di investimento della gestione attiva si traduce magari in una performance leggermente inferiore a quella dell'indice, ma più probabilmente in caso di perdita, in perdite più contenute, grazie proprio alla gestione attiva. Sai come si chiamano quelli che combattono l'obesità? Hanno l'evocativo ticker slim. Ticker slim? Gli ETF slim, esatto. Poi ci sono quelli anche che puntano sui consumi dei millennials, sul whisky, sul settore della stampa 3D, sulle aziende che rispettano i disabili, quindi le questioni delle diseguaglianze in qualche maniera nelle aziende. E ce n'è anche uno sulla parità di genere in Europa. E come, su che cosa punta? A che cosa punta? È legato? Sulle società che sono particolarmente attente a rispettare la distribuzione dei compiti all'interno delle aziende, quindi rispetta la quota di genere. È un ETF di Lyxor, che è la società che costruisce gli ETF per Société Générale, quindi insomma lo ricordiamo perché hanno mandato peraltro un comunicato stampa molto preciso e dettagliato, mentre tutte le altre notizie le abbiamo trovate su web. Questo è strutturato insomma di prodotto, quindi mi piaceva insomma segnalarlo. Beh, insomma, un mondo molto interessante. C'è un ascoltatore che chiede dove posso trovare un elenco esaustivo sui maggiori ETF disponibili sul mercato, forse sul sito di Borsa Italiana. Assolutamente, penso che sono tutti strumenti quotati. Lì, Andrea, in quel caso vale sempre il concetto che non tutti gli ETF sono uguali, per cui non è come con i fondi, sugli ETF alcuni costi sono impliciti. Infatti le faccio proprio questa domanda: allora, l'ETF che punta sulla Borsa Italiana, domattina ne partono due costruiti da due società completamente diverse, saranno identici anche nel loro andamento? In che cosa si differenzieranno? Perché io dovrò comprare domani mattina, volendo puntare a replicare identicamente il mercato italiano, perché dovrei puntare su quello che magari costruisce Che Banca rispetto a quello che costruisce Mauro Meazza SGR? Beh, anzitutto la società è comunque un fattore di la società che emette e che gestisce l'ETF Che Banca è un po' più credibile insomma di della Mauro Meazza SGR. Sì, che è nata in questo momento e quindi adesso si dovrà strutturare un attimo. Il secondo aspetto è quello della liquidità e dei costi, cioè più è liquido un ETF meglio è, e i costi non sono uguali per tutti, non sono tutti liquidi nello stesso modo, quindi il fatto di comprare e rivenderli abbastanza rapidamente, quello è vero, però ovviamente no, glielo chiedo nel senso, quindi sì, c'è sì, questa differenza. Assolutamente, si tratta di strumenti anche se sono identici, si tratta comunque di strumenti quotati, per cui se io devo acquistare o vendere un ETF devo andare sul mercato e devo trovare o domanda o offerta, pertanto più sono liquidi maggiori saranno i volumi in domanda e in offerta, e più stretta sarà la differenza tra il prezzo in acquisto e il prezzo di vendita, perché anche questo dobbiamo ricordarlo. Non c'è un prezzo solo per l'ETF, c'è un prezzo d'acquisto e un prezzo di vendita, che vuol dire che se noi andiamo a comprare un ETF e dopo un minuto lo vendiamo, noi comunque, se il mercato non si è mosso, perdiamo la differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita. E quello è un altro costo che comunque va considerato. Pertanto, sempre andare a vedere le quotazioni degli ETF, quant'è la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita che vediamo in quotazione. Tanto più stretta la differenza tra questi due prezzi, migliore ovviamente, minori sono i costi, perché un domani vorrà dire che andrò incontro ad una differenza inferiore quando andrò a decidere di venderlo. Mm-hmm. Poi ci sono degli altri aspetti che sono i costi della replica dell'indice. Per cui ci sono ETF che agiscono a replica sintetica, per cui vanno a comprarsi un future sull'indice, o ETF che agiscono in replica fisica. Per cui vanno continuamente ad acquistare e a vendere i titoli sottostanti, replicando ogni giorno la composizione dell'indice. I funzionamenti sono differenti e i costi sono differenti. Replicare fisicamente un indice azionario che è composto da 100 o 300, 400 titoli è un conto, replicare un indice obbligazionario che è composto da 3.500 titoli è un altro costo. Certo. Gli indici obbligazionari sono composti in maniera ponderata sulla presenza della capitalizzazione del debito. Tra l'altro, proprio anche la costruzione dell'ETF molto spesso, data la complessità, è quell'elemento che condiziona l'andamento dei mercati, perché quando una grande società che gestisce ETF si mette a costruirne uno composto in questa maniera, è chiaro che ha un impatto diretto anche sui mercati di riferimento, no? Assolutamente. Quando sì, questi cominciano a vendere e comprare, si vedono gli effetti sui mercati, e non sempre, perché sono i milioni di piccoli risparmiatori che agiscono. Sì. Ad esempio, se supponiamo per esempio che il 30% ipotetico di un mercato sia investito da ETF, e gli ETF devono per forza replicare al primo ribasso di borsa delle quotazioni, gli ETF cosa deve andranno fare? Deve prendere e deve andare a vendere, per cui si genera un'amplificazione, esatto, della volatilità di mercato, perché loro, per essere perfettamente allineati all'indice, devono vendere. Allora, siamo quasi al mio momento, della mia parola chiave, ma è prima, essendo giovedì, è il momento del domandone. Allora vi chiederemo una cosa che abbiamo detto in trasmissione. Il numero per rispondere è 800 24 00 24. Ma vuoi la sigla? Ma sì, dai. Sigla. Perché così richiamiamo l'attenzione degli ascoltatori, se sentono la allora sigla. Vogliamo sapere a quanto sono stati portati i tassi di interesse dalla Federal Reserve nella giornata di ieri. L'abbiamo detto, se siete stati, sì, attenti, esatto. Forse anche ben due volte addirittura. 800 24 00 24. E ora il traffico. Due di denari. Dopo il super speciale di ieri sera dedicato ai 30 anni di Indietro Tutta con Renzo Arbore, che io ho amato tantissimo, e anche se ero praticamente una bambina, ero appena uscita dall'asilo. Ma infatti non capisco come tu possa aver visto Indietro Tutta, no, che manco guarda, eri nata. Assolutamente. Anzi, salutiamo Gegè Telesforo, che faceva parte di quella cricca. No, mi aspettavo di mettere stamattina Sì, la vita è tutto un quiz, però... No, guarda, io non posso aiutarti, perché ieri sera, lo dico a beneficio di Peter Bescapè, ho visto l'imperiosa affermazione del Milan sul Verona. Cambiate che tema qualche vedo volta, che oramai è cominciata la svolta, caro Peter, e a questo punto vincerete tutto. Io ve lo auguro naturalmente di cuore, in vista del derby del 27 dicembre, naturalmente. Sì, rifallo allora sta domanda, ti ha messo la scusami, sigla. Scusami, rifaccio la domanda, me l'ho distratto a parlare di calcio con Peter Bescapè. Allora, vogliamo sapere a quanto sono stati portati i tassi di interesse dalla Federal Reserve, dalla Banca Centrale Americana. 800 24 00 24, per intervenire in diretta e darci la risposta. Allora, tra l'altro, a proposito di interazione in diretta, molti ascoltatori stanno intervenendo con tutte le loro considerazioni in questa relazione che abbiamo stretto, anzi questo conflitto che abbiamo di nuovo ribadito, tra da una parte i fondi di investimento, dall'altra parte gli ETF. Molti ascoltatori dicono: beh, non siete obiettivi, ma noi in realtà mi sembra di essere stata largamente obiettiva stamattina raccontando i vantaggi di un mondo rispetto ad un altro. 15.000 euro investiti su un fondo attivo su Fuzimib in un anno mi ha fatto il 21% di rialzo con spese del 2,5%, quindi avrà fatto un costo complessivo della gestione di questo fondo. Un ETF sempre sul Fuzimib in un anno più 27% con spese dello 0,4%. Sono le cose che abbiamo detto, ma è anche vero che dobbiamo guardarla al contrario. Nel caso in cui il mercato cominciasse violentemente a scendere, magari il gestore bravo argina le perdite, l'ETF scende violentemente con il mercato, quindi il punto è un po' questo, Parin. Sostanzialmente questo. Sui costi non possiamo dire nulla, perché vero anche che ci sono con una selezione attenta gestori che sono in grado anche di ripagare abbondantemente, esatto, le commissioni di sottoscrizione e le commissioni di gestione dei fondi di investimento. Quello però è tutto un altro cinema, perché significa andare a scegliere, così come scegliamo l'ETF migliore, scegliere il fondo migliore. Scegliere il fondo migliore però è molto più difficile che scegliere l'ETF migliore. Però sostanzialmente non generalizziamo, cioè ci sono migliaia e migliaia di fondi, e tra queste, esatto, migliaia e migliaia di fondi, il lavoro anche nostro di consulenti, di selezionatori, di direttori investimenti è quello di andare a parlare con i gestori e cercare di capire quali sono i gestori più bravi, i fondi migliori e quelli che possono portare il miglior rendimento ponderato per il rischio, perché bisogna sempre considerare non il rendimento e basta, ma il rendimento per il rischio che si assume. Ecco, cioè, se ho capito, quindi tutta questa spiegazione sugli ETF, l'ETF ha un po' il suo merito e nello stesso tempo il suo limite nella meccanicità, potremmo dire, della sua replica dell'indice. Quindi noi possiamo aspettarci che finché le cose vanno bene, anche per il nostro ETF, l'ETF che abbiamo scelto, le cose vadano bene. Assolutamente sì. E invece quando le cose, ohimè, potessero non andar bene, succederà lo stesso al nostro ETF. Però in qualche caso, ad esempio, prima mentre ascoltavamo la pubblicità ci parlava del legarsi al prezzo del petrolio, bisogna considerare che non basta solo il valore del petrolio a dirci che se l'ETF andrà bene o andrà male, perché possono entrare in gioco altri fattori nell'ETF, ad esempio. Assolutamente, i costi di replica, ad esempio in un ETF sul petrolio che si chiama ETC, peraltro, perché sono quelli sulle commodities, esattamente, quindi sulle materie prime. C'è il costo di a replica fisica, c'è il costo dello stoccaggio del petrolio o della materia prima, pertanto non ci possiamo aspettare che salgano esattamente come sale il mercato, o che se il prezzo resta fermo, l'ETF possa perdere per via dei costi di... Certo. Non ci dimentichiamo poi qualche volta replica. Qual è il ruolo anche delle valute in questi mercati, che sono largamente condizionati anche dall'andamento, appunto, delle divise e dei mercati di riferimento. Assolutamente. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Vedo già che in molti si sono candidati, caro Mauro, a rispondere al domandone di oggi. Tutti ieri sera a seguire la riunione della Banca Centrale Americana, perché sapevano che stamattina li avremmo interrogati su questo. Chissà cosa mi fa oggi Draghi. Beh, ma guarda, eravamo probabilmente solo io e Peter Bescapè che eravamo chiusi ad aspettare Milan-Verona. Invece Marco, mi pare, se vogliamo sentirlo, ha già la risposta pronta. Allora, Marco, buongiorno. Buongiorno e grazie per la vostra trasmissione. Grazie a lei. Senta, i tassi che la Fed è andata a ritoccare hanno un range dall'1,25 all'1,50. Glielo facciamo un applauso? No, me l'hanno trovata, grazie. Grande Peter, ma quanto mi sei professionale, che grandi soddisfazioni. Vabbè, allora, grazie Marco, ovviamente la risposta è esatta, abbiamo cambiato lo stacco audio, di solito utilizziamo un applauso. Secondo me Marco Parini da gennaio non viene più a trovarci, ci viene lo stesso. Ma assolutamente sì. Questa coppia di matti che esatto, conduce due di denari, forse all'insaputa anche della proprietà, perché esatto, potrebbero prima o poi farci smettere con la nostra, vabbè, autorevole leggerezza, però io devo dire che questa mattina ho capito finalmente come accidenti funziona l'ETF. Vedi. E questo, beh, insomma, io ti sono abbastanza grato. Forse ti offro anche un caffè, Deborah. Ma guarda, guarda, siamo pronti. Adesso ci mancano 3 minuti prima di chiudere il programma. Allora, come li vogliamo spendere, Parini? La chiusura di quest'anno è stata l'insegna dei record di Wall Street, un mercato sostanzialmente stabile. Peraltro, il fenomeno Bitcoin che sta esplodendo. Lei ha qualcosa da dire a questo proposito? Raccomandiamo un pochino di prudenza ai nostri ascoltatori che adesso... La prudenza va raccomandata sempre. Su qualunque, su qualunque cosa. Sul tema della valuta virtuale, la prudenza magari è un po' più richiesta nel momento stesso in cui comunque non c'è trasparenza nelle negoziazioni, non c'è una regolamentazione, non ci sono strumenti di copertura sulle posizioni, per cui in questo momento non mi sento di esprimere un parere favorevole o negativo nei confronti del Bitcoin. Ma sicuramente il buon senso è la prima regola da applicare nella finanza, prima ancora della matematica. Se proprio volete provare, prendete una carta prepagata, ci mettete lì un po' di soldini e più di quelli non potete perdere. Fate qualche transazione prova sperimentale in questa modalità. Ecco, se proprio volete accanirvi. C'è molta curiosità ovviamente sul Bitcoin, continuate a scriverci, ci mandate messaggi, richieste, email, eccetera. Noi, diciamo, tutti gli esperti che portiamo qui, come stamattina Marco Parini, ci dicono: siate prudenti, state a quarte, insomma, vedetela un po' voi, non esagerate, perché ancora poi, di questo non si comprende abbastanza bene tutto il funzionamento. La cosa un po' buffa è che si dice, ad esempio, sul mercato americano, il mercato sta ai massimi, stiamo attenti perché poi sceglie. E poi dopo sul Bitcoin invece questo ragionamento non viene fatto, tipo, hai visto dove sta il Bitcoin, bisogna comprarlo perché sennò restiamo fuori dal giro. Stiamo chiudendo, grazie a Marco Parini per essere stato con noi, probabilmente prima di Natale non ci vediamo più, per cui buone feste. Grazie altrettanto a voi ed è sempre un piacere essere alla qui prossima, con voi. Alla prossima trasmissione, noi hai voglia prima di andare a festeggiare. Ma tu vai un po' prima di me in vacanza, eppure io domani invece non ci sarò, ti te vedo lo dico. Un po' costipato. Sì, domani avrò altro da fare, ci sentiremo, vedremo. Prossimamente mi lasci da solo, perché solitamente me ne vado sempre io. Quindi ma un pochino di me ci sarà anche domani. Ottimo, buona giornata a tutti e grazie, a presto.